Fottogiorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Secondo il Censis, l'Italia è un paese in letargo. La ripresa passa da singoli o piccoli gruppi. E oggi, dati di Federalberghi sul ponte dell'Immacolata, 6 milioni in viaggio, voglia di reagire al terrore. Il Parlamento tedesco dà il via libera alle azioni contro ISIS. Hollande in visita sulla porta aerea Charles de Gaulle. Oggi il vertice dei ministri degli interni europei. Sciopero dei mezzi pubblici e targhe alterne, giornata di passione per Roma, 4 giorni dall'apertura del Giubileo, metro C intanto ferma i lavori, mancati pagamenti per 200 milioni di euro. Strage in Egitto in una discoteca, le Molotov sarebbero state lanciate da 2 clienti delusi per essere stati respinti all'ingresso. Le frasi delle guardie penitenziarie registrate da un detenuto, basta uno solo che ti meni, non serve che entri io. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. In apertura andiamo a parlare del rapporto annuale del Censis, arrivato tra l'altro alla sua 49esima edizione, un tradizionale appuntamento per fare il punto sulla situazione italiana. Sentiamo. È l'Italia dello zero virgola, un paese che ancora non riprende a crescere se non a ritmi lenti. Aumenta il risparmio e non si ritrova la propensione al rischio. Questa è l'Italia fotografata dal Censis nel tradizionale rapporto annuale. Il direttore generale Massimiliano Valeri. Prevale nella società italiana ancora un atteggiamento difensivo, prevale ancora la tendenza a un cash cautelativo da parte delle famiglie e continua a gonfiarsi la bolla del risparmio. Il grande assente del momento sono gli investimenti, sia pubblici che privati. Per il Censis è un paese che vive alla giornata. Nell'Italia che cambia si assiste al boom degli acquisti su internet, ai consumi familiari che tornano a concentrarsi su mattone e beni durevoli, cresce la fiducia nelle start-up, si restringe il welfare e gli immigrati stanno raggiungendo il ceto medio. Sul fronte del lavoro il rimbalzo è soltanto parziale e continua l'allarme per l'occupazione giovanile. Per il presidente Giuseppe De Rita è necessario uscire dal limbo. Nazaren Orlandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E cambiamo argomento, tra poco torneremo alla situazione italiana e anche a quello che ci si attende sul fronte del ponte dell'Immacolata. Intanto andiamo alla strage di San Bernardino, in California le indagini restano aperte. I due autori del massacro di San Bernardino a casa avevano un vero e proprio arsenale, foriero di ulteriori stragi, migliaia di cartucce, ordigni, materiale per costruire altri esplosivi. Ma sono le motivazioni di Sayed Farouk e di sua moglie Tashfin Malik, la coppia musulmana che mercoledì ha ucciso 14 persone e ne ha ferite altre 21, ad essere ora al centro dell'inchiesta dell'FBI, che ha deciso di trattare il caso come un'indagine antiterrorismo. Una pista confermata nelle ultime ore anche dal presidente Barack Obama. Il terrorismo è possibile, ha detto, ma non conosciamo ancora i loro motivi e i loro piani. But we don't know why they did it. We don't know at this point. Gli inquirenti stanno esaminando, oltre all'arsenale, anche i contatti che Farouk avrebbe avuto con personaggi vicino al terrorismo internazionale e i suoi viaggi negli ultimi anni in Medio Oriente e in particolare in Arabia Saudita. L'obiettivo? Verificare se esistano segni di una radicalizzazione passata a lungo inosservata di quello che veniva descritto come un uomo religioso ma non estremista e come un tranquillo dipendente del Dipartimento della Sanità della Contea Californiana. Nel frattempo, dalle autorità non vengono affatto escluse ragioni di vendetta sul posto di lavoro né motivazioni miste, personali e ideologiche. Marco Valsani, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York. Questo è il quadro ancora non chiaro dalla strage di San Bernardino, mentre non è chiaro nemmeno, non sono chiare nemmeno le motivazioni della strage avvenuta in Egitto in un incendio doloso di un locale notturno. Una vendetta o un atto terroristico? Non c'è chiarezza su quanto accaduto venerdì notte al Cairo, se non la morte di 18 persone nell'incendio appiccato dalle bombe Molotov scagliate dagli attentatori. Il gestore del locale ha attribuito la responsabilità degli avventori che erano stati respinti, un consigliere della procura ad ex impiegati licenziati, ma non può essere esclusa la pista terroristica, tanto più che il locale sarebbe di proprietà di un sottosegretario al Ministero della Cultura. Di terrorismo però non si parla apertamente in Egitto, a meno che non sia necessario, per preservare quel che resta della fu gloriosa economia del turismo. Ciò non toglie che il paese sia quotidianamente alle prese con gli attacchi interni dei fratelli musulmani e nel Sinai e sui confini libici con quelli dell'ISIS. In questi giorni poi, in cui fonti concordanti indicano l'arrivo in Libia attraverso l'Egitto ovviamente di combattenti e leader dell'ISIS, la Tunisia ha inviato rinforzi militari al confine libico e chiuso l'aeroporto della capitale Tunis-Cartaghia agli aerei libici fino a nuovo ordine. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. E a proposito di lotta al terrorismo e di lotta all'ISIS, il Bundestag tedesco ha approvato ad ampia maggioranza oggi l'intervento militare in Siria contro il califfato. Sui 598 presenti hanno votato a favore 445 deputati. L'intervento prevede l'impegno di fino a 1200 militari tedeschi, fino a 6 Tornado per operazioni di ricognizione, satelliti, una nave da guerra di appoggio e un aereo da rifornimento in volo. Mentre l'allerta sulla Gran Bretagna, specie dopo il voto a favore dell'intervento militare in Siria, resta alta. Mentre la Gran Bretagna vanta il successo della sua prima offensiva ad ISIS in Siria, in patria la grande incognita sono gli attacchi che dallo Stato Islamico potrebbero arrivare al popolo britannico. Colpiremo tutti coloro che bombardano la Siria, era stata la minaccia in un nuovo video da brivido pubblicato sul web da ISIS subito dopo gli attentati di Parigi. Il primo ministro David Cameron, dopo i 7 attentati terroristici già sventati a Londra negli ultimi 12 mesi, ha scelto di non aspettare che la minaccia si materializzi e di passare al contrattacco accanto agli alleati, bombardando le risorse petrolifere con cui ISIS compra munizioni e finanzia le sue attività jihadiste. ISIS in Syria and Iraq is aiming to hit the United Kingdom. Secondo un'agenzia per la sicurezza europea citata dalla CNN, il prossimo bersaglio di ISIS sarebbe proprio il Regno Unito, con jihadisti britannici che starebbero rientrando in patria per commettere attentati suicidi. Fonti ufficiali rivelano che sono 800 i britannici radicalizzati in Siria, il 60% dei quali sarebbero già rientrati in Gran Bretagna. Lo stato di allerta, che negli ultimi mesi è indicato come severo, di fatto dopo i raid in Siria non è stato elevato a critico, quello più alto, il che vuol dire che il regno è ancora in stato di minaccia molto probabile, ma non imminente, anche se a Londra si parla di dove e non di se ISIS metterà a segno i suoi piani di morte. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra. E oggi il vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea. Abbiamo chiesto a Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, che cosa ci si attende. Sentiamo. Ma sarà un incontro in cui ci sono due temi che saranno in discussione. Il primo tema è certamente lo stato di salute di Schengen e il controllo delle frontiere esterne da parte della Grecia. Negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, non pochi paesi dell'Unione Europea hanno rumoreggiato, se non criticato apertamente il governo greco, per una mancanza di controllo delle frontiere esterne, attribuendo proprio a questa mancanza di controllo l'arrivo in Europa, soprattutto del nord, di molti rifugiati, di molti profughi. Quindi i ministri degli interni vorranno in questa circostanza mettere sotto pressione la Grecia perché faccia maggiore controllo delle sue frontiere. Proprio ieri il governo greco ha chiesto l'aiuto dell'Unione Europea per meglio controllare le proprie frontiere. Il secondo tema sarà un tema invece dibattuto da parecchio tempo a livello politico, sulla nascita di una banca dati dei passeggeri aerei, sia per i voli intraeuropei che per i voli intercontinentali. Il tentativo in questo caso è di trovare un accordo con il Parlamento in vista della creazione di una banca dati che deve permettere agli occhi dei governi di meglio lottare contro il terrorismo. Ed è di pochi istanti fa la dichiarazione del ministro dell'Interno Angelino Alfano, in una pausa dei lavori appunto del Consiglio Interni dell'Unione Europea, che dice che è stato appena concluso un accordo sulla direttiva PNR, quella della quale ci parlava pochi istanti fa Beda Romano, un accordo che si concluderà definitivamente il 15 dicembre. Dice Alfano che i dati saranno in chiaro per 6 mesi e resteranno accessibili anche se criptati per i 4 anni e mezzo successivi. Siamo a Roma, dove quella di oggi è senza dubbio una giornata difficile, di passione, scioperi dei mezzi pubblici e targhe alterne, il tutto a 4 giorni dall'avvio del Giubileo. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, è proprio così, una giornata nera per i trasporti a Roma. Per 4 ore questa mattina, a partire dalle 8.30 fino alle 12.30, gli autisti dell'ATAC hanno scioperato e sono state chiuse anche la metro A e B e la ferrovia Roma-Lido. A complicare ancora di più la mattinata caotica, le targhe alterne per l'emergenza smog fino alle 12.30, che riprenderà anche dalle 16.30 alle 20.30 di questa sera, con la circolazione dei soli numeri pari. Riattivata da poco la linea B e B1 della metropolitana, mentre continua a essere chiusa la linea A, regolare il funzionamento della linea C, ma su questo va segnalata un'altra magagna per il Comune di Roma: lo stop ai lavori deciso dal Consiglio di Amministrazione della società per gravi inadempimenti dell'amministrazione capitolina e mancati pagamenti per oltre 200 milioni di euro. Ricordiamo che la metro C è aperta in parte e dovrebbe essere completata il settore che va verso il centro, e nell'ultimo anno ha già prodotto 6 milioni di passeggeri e una regolarità del servizio del 99%. Per questo Simone, sarà un problema per il comune. Ti ringrazio intanto, grazie alla nostra Elisabetta Fiorito. Di questo torneremo a parlare più avanti, intervisteremo proprio il presidente della società Metro C per capire un po' questi pagamenti, se il comune gli ha dato qualche idea di quando arriveranno. Passiamo alla politica. Sono giorni nei quali si continua a discutere dell'elezione dei giudici della Corte Costituzionale, ma i partiti non riescono a trovare un accordo. Di questo ci parla, nella sua analisi del venerdì, Daniele Biacchessi. La mancata elezione dei membri mancanti della Corte Costituzionale è davvero, come afferma il Presidente del Senato Grasso, una brutta pagina della politica italiana. Certo, direte voi, non è un tema in grado di appassionare larga parte dei cittadini, ma la totale assenza di una maggioranza tramite un accordo tra gruppi parlamentari e partiti determina una impasse istituzionale grave, perché la Corte Costituzionale è un organo super partes che dovrebbe garantire la legittimità degli atti politici e amministrativi dello Stato e delle regioni, dirimere ad esempio conflitti tra istituzioni oppure esprimersi sugli atti d'accusa nei confronti del Presidente della Repubblica. Quindi si tratta di eleggere alcuni componenti, specificamente quelli indicati dalla politica, di una struttura vitale per il funzionamento dello Stato. Invece no. Il quorum alto, 3/5 delle assemblee, concepito come garanzia di rappresentatività e autorevolezza degli eletti, è stato poi trasformato dai partiti politici, dai gruppi parlamentari, in un'arma di boicottaggio e ricatto, di inutili veti incrociati, di prove di nuove maggioranze. A tutti, invece, dovrebbe interessare il bene comune, direttamente o indirettamente, al di fuori dalle posizioni ideologiche e politiche. Una notizia di questa mattina: il PM di Milano Gaetano Ruta ha chiesto il rinvio a giudizio del patron di Esselunga Bernardo Caprotti, del direttore di Libero Maurizio Belpietro e del giornalista Gianluigi Nuzzi, nell'ambito di un'inchiesta con al centro una presunta campagna di diffamazione contro Coop Lombardia. La campagna sarebbe svolta attraverso una ricettazione con l'acquisto di un CD-ROM contenente telefonate registrate illecitamente sulla linea di un direttore della Coop di Vigevano, per consentire ai giornalisti di realizzare servizi contro Coop Lombardia, concorrente commerciale di Esselunga. Vedremo come andrà a finire questa vicenda. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, poi in qualche modo sulle strade resteremo sulle strade di questo fine settimana lungo, di questo ponte che si apre, per capire un po' come saranno e dove andranno gli italiani. Ci sono i dati di Federalberghi di oggi e poi parleremo anche di sicurezza stradale in queste ore. A tra poco. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Effetto Giorno. Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. In primo piano i dati del Censis, secondo il quale l'Italia è un paese in letargo e la ripresa passa da singoli o piccoli gruppi. Ci sono anche i dati di Federalberghi e di Confesercenti sul Ponte dell'Immacolata e sul Natale, ne parliamo tra un attimo. Il Parlamento tedesco ha dato il via libera alle azioni contro ISIS, Hollande in visita intanto sulla porta aerea Charles de Gaulle. La strage in Egitto in una discoteca, sono state lanciate alcune Molotov, 18 le vittime, incerto il movente. E poi lo sciopero dei mezzi pubblici e, come avete sentito, le targhe alterne a Roma, una giornata di passione a 4 giorni dall'apertura del Giubileo. Queste le notizie principali oggi. Adesso andiamo ad occuparci dei dati diffusi questa mattina da Federalberghi da una parte, dall'altra parte da Confesercenti. Si parla del Natale, si parla di come andrà questo ponte dell'Immacolata, insomma si parla di economia e eventualmente ripresa. Sentiamo. Per il ponte dell'Immacolata saranno più di 6 milioni i vacanzieri italiani che si metteranno in viaggio e dormiranno almeno una notte fuori casa, segnando un incremento del 12,9%. Nel 2014 erano stati meno di 5 milioni e mezzo. Lo rivela un'indagine previsionale di Federalberghi, secondo la quale crescerà anche la spesa media pro capite, comprensiva di trasporto, alloggio, cibo e divertimenti, che si attesterà sui 267 euro rispetto ai 262 del 2014, generando un giro d'affari lordo di 1,6 miliardi di euro rispetto agli 1,4 miliardi dell'anno scorso. Per chi rimarrà in Italia la spesa media si attesterà sui 261 euro, mentre per chi preferirà mete oltre confine la spesa media salirà a 693 euro. La maggior parte dei vacanzieri rimarrà in Italia preferendo le località montane come da tradizione. Il 2,1% andrà invece all'estero scegliendo soprattutto le grandi capitali europee. La casa di parenti o amici sarà prescelta da oltre il 33% dei viaggiatori rispetto all'albergo scelto dal 25%. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per il Natale 2015 gli italiani spenderanno circa 25,6 miliardi di euro, 231 in più rispetto allo scorso anno. Per i regali la spesa media sarà di 256 euro a famiglia e per un italiano su tre non supererà il tetto dei 100 euro. Rispetto al 2014 si faranno più regali, ma ci sarà più attenzione alla convenienza che alla qualità, con l'eccezione del cibo. Anche per la cena della vigilia e per il pranzo di Natale si spenderà di più. Sono timidi segnali di ripresa quelli che arrivano dalle stime diffuse oggi da Confesercenti. La buona notizia, secondo l'Associazione dei Commercianti, è che il timore di nuovi attacchi terroristici dopo quelli di Parigi non sembra aver avuto i temuti effetti sui consumi. Ad aumentare sono anche gli italiani che durante le feste si metteranno in viaggio. Saranno 11,6 milioni, il dato più alto dal 2007. Il presidente di Confesercenti, Massimo Vivoli. È cresciuta molto la fiducia. Questo è un dato estremamente importante. I consumi non sono dati che noi ci aspettavamo, credevamo sicuramente in dati maggiori, però è certamente un segnale positivo di una ripresa, di voler festeggiare, di voler partecipare anche per quanto riguarda i consumi del turismo, con dei dati che emergono a livello positivo. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E per chiudere questa pagina dedicata al Natale, al ponte dell'Immacolata, per parlare anche di sicurezza stradale, abbiamo raggiunto Umberto Guidoni, che è presidente della Fondazione ANIA per la sicurezza stradale, proprio per fare un punto, partendo anche da quanti incidenti si svolgono solitamente in questi periodi di grandi partenze. Sicuramente i periodi di esodo legati alla l'incidentalità stradale sono fenomeni che tra loro sono spesso connessi. È difficile poter paragonare questo specifico weekend lungo, diciamo così, con quello dell'anno scorso, perché cambiano i giorni, cambiano anche quindi le abitudini e le tipologie di spostamento, per cui diciamo noi ci riferiamo più a periodi dell'anno ricorrenti come quello natalizio, che ha caratteristiche simili anche dal punto di vista meteorologico. Dobbiamo dire che nell'ultimo anno, cioè nel 2014, si sono registrati in questo periodo un calo, una diminuzione del numero complessivo degli incidenti, quelli anche quelli con esito mortale, e del numero complessivo delle vittime e dei feriti. Quello che forse colpisce maggiormente è il numero di infrazioni. Cioè, andando a vedere in quel periodo dell'anno quali sono state le infrazioni e le multe elevate da parte della polizia, vediamo che c'è un calo su tutti i fronti e quindi un comportamento più corretto, un forte contenimento delle contravvenzioni per eccesso di velocità, un forte contenimento anche delle contravvenzioni legati alla guida in stato d'ebbrezza. Quindi complessivamente un buon segnale. E voi avete attivato anche una serie di iniziative anche insieme alle forze dell'ordine. Ci dà qualche dettaglio? Beh, noi abbiamo attivato delle iniziative per il controllo, per esempio, della guida sotto l'effetto della droga e degli stupefacenti in generale, insieme alla polizia, testando dei nuovi dispositivi che consentono un controllo alle pattuglie e che ha dato dei risultati molto molto importanti, che ancora non sono consolidati ma che danno una dimensione molto estesa del fenomeno e quindi sicuramente una nuova tipologia di comportamento a rischio da parte dei conducenti, una nuova o comunque una tipologia di comportamento a rischio che oggi le forze dell'ordine sono in grado di determinare. Invece con i carabinieri abbiamo avviato un'iniziativa a metà novembre, che finirà a metà gennaio circa, che si chiama Adotta una strada e che va a aumentare in maniera significativa il numero dei controlli su alcune arterie che portano ad un'elevata incidentalità e anche ad un'elevata mortalità. Ci può dire quali sono le strade o sono troppe per citarle tutte? Le strade sono quattro in questo periodo e sono la Postumia, la Pontina, che è la strada umbro statale, la strada statale 407, e la Basentana. Donato Capece, segretario generale del Sindacato di Polizia Penitenziaria Sappe, buongiorno e benvenuto ai nostri microfoni. Buongiorno. Allora, c'è un audio che adesso le facciamo sentire, che lei probabilmente avrà già sentito, ma i nostri ascoltatori non è detto che l'abbiano fatto. È un audio ricavato da un'associazione che si chiama A Buon Diritto e pubblicato oggi, e del quale parla oggi il quotidiano La Repubblica, ed sono le parole di un detenuto che parla con dei poliziotti penitenziari, appunto. Sentiamo. Io ho detto solo quello che è successo, che siete entrati e mentre il vostro collega mi sta picchiando, io non ho fatto nulla. Lei dice non siete entrati, ma siete entrati, lei non mi ha toccato, ma il vostro collega mentre mi sta picchiando, vedo che lei è brigadiere, no? Lo puoi dire, fermati. Chi? A lui? A lui. No, io mi ho aggredito l'altro. Però siccome te ne sta dando lui, non serve che te ne do pure io, basta uno solo che te ne dà. Allora, Capece, che effetto le fa sentire questa registrazione? Guardi, io intanto non capisco come può essere possibile che un detenuto che sta scontando una pena a 9 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale possa, durante la sua permanenza in cella, tenere con sé un registratore con cui memorizzare frasi riferite a suo dire ad appartenere alla polizia penitenziaria. Noi non abbiamo nulla da nascondere, ma siamo stanchi di essere bersaglio di coloro che, seminando gravi accuse, tutte da verificare, continuano a farsi pubblicità indossando i panni del paladino dei detenuti, bravi e innocenti, contro i poliziotti brutti, sporchi e cattivi, per far breccia sull'emotività della pubblica opinione. Siamo in grado noi da soli, se ci sono stati degli elementi che sono contro l'immagine, contro la polizia penitenziaria, di espellerli. Però non accettiamo più che gratuitamente si spari sulla polizia penitenziaria. Tengo a sottolineare che sono decine e decine di detenuti a cui tutti i giorni salviamo la vita, e non può eventualmente, ripeto, tutto da verificare, un episodio mettere alla berlina un corpo di polizia dello Stato. Ma qua infatti non si sta mettendo alla berlina nessuno, Capece, si sta semplicemente, è un caso che è stato tirato fuori da un grande quotidiano nazionale e che, come dire, ci sembra interessante approfondire con lei. Insomma, se fosse confermato quello che abbiamo sentito, sarebbe molto grave, no? Se mi consente, è tutto da approfondire il caso. Io penso che l'amministrazione penitenziaria sicuramente farà delle indagini, ma purtroppo devo dire che sovente vediamo lanciare accuse da parte dei ristretti sulla polizia penitenziaria. Posso ancora una volta ribadire che questo corpo di polizia è una polizia penitenziaria sana, che tutti i giorni salva la vita a decine dei detenuti. Questo la deve dire lunga, la dice lunga su quello che può essere facilmente da tante persone pensare che la polizia penitenziaria maltratta gli stretti. Non è assolutamente così. Quindi casi di maltrattamenti nelle carceri non ci sono, secondo lei, Capece? No, casi di maltrattamenti non ci sono. Se per maltrattamenti si parla di violenza o di altro. Noi nel carcere siamo noi che spesso e volentieri veniamo gratuitamente aggrediti da parte dei detenuti, specie gli extracomunitari, perché purtroppo Loro non accettano le regole di questo paese, non rispettano l'uomo in divisa che rappresenta lo Stato, e quindi tutto si scarica su quel quindi, uomo. Ripeto capisce, per capire meglio, lei si sente di escludere che avvengano maltrattamenti nelle carceri italiane per essere... Guardi, siamo abituati a queste accuse. Io ricordo qui... No, io non sto accusando, io sto facendo domande. Sì, sì, dove il caso Cucchi, dove per ben due gradi di giudizio hanno assolto la polizia penitenziaria, quando tutti avevano detto che i colpevoli erano per i mass media, per tutti, era la polizia penitenziaria. Ecco, questo da qui nasce la nostra amarezza, perché facilmente si punta il dito contro i poliziotti penitenziari e poi magari non si va a vedere effettivamente quali sono. Come fa un detenuto ad avere in cella un registratore? Anche questo sarà da capire. Come sente, abbiamo dato voce a lei, quindi qua non c'è, come dire, su questa vicenda non c'è nessuno che vi maltratta. La ringrazio, grazie a Donato. Mi sembra strano però che abbia usato uno strumento che è vietato dalla legge, quindi mi sembra assolutamente strano. Sì, ma infatti sarà un altro degli elementi da capire. La ringrazio, grazie a Donato Capece, segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria a Sappe. All'ascoltatore ci scrive su WhatsApp dicendo che difendiamo i delinquenti, assolutamente no. Abbiamo sollecitato una risposta al sindacato di polizia penitenziaria su un caso che ci sembrava interessante, perché se i maltrattamenti in carcere di questo tipo avvengono, non è giusto che avvengano, nonostante, come dire, qualcuno ritenga che sia opportuno. Parliamo di altro, perché Bologna si prepara a seguire l'esempio di Firenze, Torino, Napoli e Venezia, approvare una delibera che permetterà al comune di affittare ai privati i servizi proprio delle forze dell'ordine. Abbiamo pensato che in questo momento di scarsità di risorse per le amministrazioni era giusto anche, che so, che chi fa un concerto allo stadio Dall'Ara con 30.000 persone ed impegna Polizia Municipale contribuisse in un qualche modo anche in quel modo lì, insomma. Il modo a cui si riferisce Riccardo Malagoli, assessore ai lavori pubblici di Bologna, è pagare extra i vigili urbani per manifestazioni straordinarie come concerti, spot pubblicitari, matrimoni VIP, partite di calcio e così via. In sostanza, il privato che organizza l'evento dà i soldi al comune, che poi paga i vigili, i quali aderiscono su base volontaria dopo il turno ordinario o nel giorno di riposo, con tariffe tra i 25 euro e i 40 euro all'ora. Bologna seguirà dunque l'esempio di Napoli, Torino, Venezia e per prima Firenze, dove il modello funziona, ci spiega l'assessore alla polizia municipale Federico Gianassi. Ogni anno per il comune di Firenze avvengono eventi che comportano un costo da parte del privato per utilizzo della polizia municipale che si aggira intorno ai 100.000-150.000 euro e che ha consentito che lo svolgimento fosse anche migliore. Come migliore il servizio offerto quando a Torino giocano la Juve o il Toro? Proprio ieri io ho firmato l'accordo con Juventus, che riconosce alla città per le prestazioni straordinarie della polizia municipale riferite al campionato di calcio e a tutte le partite, per un importo che si aggira sui 58-60 mila euro circa. Così ci racconta il comandante Alberto Gregnanini. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo come sempre per sentire che cosa succede sui mercati all'indomani della giornata pesante di ieri, dopo le decisioni di Draghi che non sono state così forti come appunto i mercati e le borse si attendevano. E poi nella seconda parte della trasmissione torneremo a parlare del rapporto Censis e parleremo con il presidente della società Metro C, che oggi ha annunciato lo stop dei lavori a Roma. Perché? Perché ci sono 200 milioni di arretrati, 200 milioni di euro di arretrati da pagare che non hanno ricevuto e quindi hanno fermato i lavori. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Secondo il Censis l'Italia è un paese in letargo, la ripresa dice passa da singoli o piccoli gruppi, dice nel suo rapporto annuale. Terrorismo, accordo tra i ministri degli interni sulla conservazione dei dati sui passeggeri degli aerei, il Parlamento tedesco intanto dà il via libera alle azioni contro ISIS. C'è stata una strage in Egitto in una discoteca, lanciate alcune molotov, 18 le vittime, incerto ancora il movente. Lo sciopero dei mezzi pubblici e targhe alterne è una giornata di passione, almeno è stata una mattinata di passione per Roma, e siamo a 4 giorni dal giubileo. La borsa. Invesco, per i tuoi risparmi, investi con noi. Vi presenta Effetto Giorno. Effetto giorno alle notizie in 60 minuti, un aggiornamento che arriva in questi minuti, un'indiscrezione pubblicata dall'agenzia ANSA, sarebbe spuntato un fondo di solidarietà per salvaguardare i piccoli risparmiatori e obbligazionisti subordinati rimasti coinvolti nell'operazione di salvataggio delle quattro banche, delle quali vi abbiamo parlato diffusamente nelle ore scorse. Permetterebbe di rimborsare parzialmente le perdite stimate tra i 300 e i 350 milioni di euro. Torniamo adesso al rapporto di oggi del Censis, raccontaci qualcosa, Nazareno Orlandi, che hai seguito la presentazione, eccoci. Simone, di nuovo buongiorno. Allora, hai fatto ascoltare il servizio in precedenza e il presidente Giuseppe De Vita del Censis ha parlato di un letargo antropologico piuttosto che di un letargo economico, come già ascoltavano i nostri ascoltatori, l'ha definita un'Italia dallo zero virgola, con chiaro riferimento alla crescita del PIL, ma ha cercato come sempre di fare un'analisi più ampia, meno legata ai risultati congiunturali. Prima di andare ad un po' di dati, sentirei proprio la voce del presidente De Rita. Un aggettivo, un letargo antropologico, non siamo in letargo economico, un letargo degli individui, delle facce, dei sorrisi, delle parole, dei tatuaggi, delle telefonate, che in qualche modo preferiscono stare dentro una realtà appunto di limbo. E dunque la definisce una realtà di limbo. De Rita e il Censis fotografano un paese che sta cambiando. Prima di tutto, la notizia forse principale è questa: si vedono segnali di ritorno al mattone, un mattone che è soprattutto da dare in affitto. Infatti oltre 500.000 italiani hanno dichiarato di aver gestito una struttura ricettiva per turisti come Casa Vacanze oppure Bed and Breakfast per un fatturato di circa 6 miliardi di euro. Va detto anche che sono raddoppiate le richieste di mutui, più 94% nel periodo gennaio-ottobre 2015 rispetto allo stesso periodo del 2014, e poi i consumi sono ripartiti, ma si è riaperta la forbice sociale. Questo emerge dal rapporto del Censis. Uno degli aspetti essenziali è quello, certamente, Simone, della tecnologia. Un dato interessante è quello sugli acquisti sul web. 15 milioni di italiani fanno acquisti in rete, in generale gli utenti di internet sono saliti al 70% della popolazione e le spese per gli acquisti digitali sono in continua crescita, come è in crescita anche l'home banking, la sharing economy come il car sharing o il crowdfunding. Questi allora Nazareno, questi alcuni dei dati. Io ti ringrazio, grazie a Nazareno Orlandi per questo aggiornamento puntuale, e saluto adesso l'ingegner Franco Cristini, che è presidente della società Metro C di Roma. Buongiorno ingegnere, benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Oggi Metro C ha annunciato si fermano i lavori perché dobbiamo essere pagati, ci sono pagamenti arretrati per 200 milioni di euro. Chi ve li deve questi 200 milioni? Allora, li deve la società Roma Metropolitana, che è la società del Comune di Roma, che è il nostro committente, ma il finanziamento di questa linea è per il 70% dello Stato, quindi del Ministero delle Infrastrutture, 18% è a carico del Comune di Roma, 12% della Regione Lazio. Quindi 140 milioni dovrebbero arrivare dallo Stato, in sostanza, dallo Stato centrale, esattamente, no? E il resto appunto dagli enti locali. Come mai i pagamenti si sono bloccati, Cristini? Lei si è fatto un'idea? Questa è una domanda veramente a cui è difficile dare una risposta, nel senso che la linea è stata regolarmente costruita e in funzione da giugno per 18 chilometri su 21, quindi quasi integralmente per la parte finanziata. Il resto della linea non è attualmente finanziato. Da ormai, dall'inizio di questo anno, i pagamenti sono andati sempre più scemando, finché da marzo sono cessati completamente. Motivi: fino a qualche tempo fa, considerando anche, diciamo, la situazione generale della finanza pubblica, abbiamo sempre ritenuto fossero da attribuirsi a sostanziale mancanza di risorse. E i soci di questa società, di questo general contractor, hanno fatto fronte con risorse proprie a una situazione che in qualche modo uno può anche arrivare, come dire, a capire. Sì. Il problema è che abbiamo recentemente coperto un avviso pubblico, un avviso di gara fatto da questa società Roma Metropolitane, ripeto, sì, il nostro committente, il quale fa un avviso alle banche dicendo: io ho su un conto, sui miei conti 287 milioni, cioè una cifra superiore a quello che ci devono, sì, e chiedo alle banche quanto mi danno di interessi, di sapere, fare un confronto competitivo perché li voglio impiegare. E voi dite giustamente: beh, insomma, se questi 287 milioni di euro ce li hai in banca, li devi dare a noi, cioè ci devi pagare. Questo la semplifico molto. In estrema sintesi è questo. Ora, noi sono tre mesi. Abbiamo 10 secondi, Cristini. Sì, sì. Tre mesi che chiediamo anche, diciamo, di essere ascoltati, ma fino ad oggi siamo inascoltati. L'unica arma che abbiamo è quella di dire: noi non abbiamo più risorse perché ci siamo esposti fin troppo, e quindi l'unica decisione possibile è quella di chiudere i cantieri. È una decisione triste, è sotto Natale, tra l'altro. Questa è una cosa che personalmente mi colpisce molto, perché vuol dire far passare un Natale veramente brutto a tutti i nostri impiegati, agli operai, alle maestranze. Quante maestranze si fermano? Mi dia solo il numero. Credo oggi qualche centinaio. La ringrazio, grazie a Franco Cristini, presidente di Metro C, per questi chiarimenti. Adesso c'è il traffico, Mario Platero, ci ritroviamo alla fine per i saluti.